tutto già lo sai. Quante volte ho pensato di lasciare tutto al fato, e adesso forse ho capito che tutto il resto dipende da quello che ho fatto. Sono felice di avervi accanto, per questo che me ne faccio un vanto, anche se a volte non vi ho ascoltato e lo dico attraverso il canto. Sono tre le stelle che seguo, sono tre le mani cui tengo, sono tre le voci che ascolto, del resto me ne frego. Non dirmi grazie o prego, di questi tempi gli anni ci sono solo come pezzi di Lego. Grazie per quello che hai detto, grazie per quello che hai fatto, per questo che meriti il mio rispetto. Per te la mia mano sul petto, per te che ti conosco da quando sono nato, da quando giocavamo in un prato, in una campagna, in un posto dimenticato, non l'ho scordato. E no, come che sei potuto, tu che sei il fratello che ho perduto, tu che sei la vita che non ho vissuto, te che eri con me ogni metro, che sei con la sambuca da un litro. Io lo so che l'amicizia non muore, anche se qualcuno forse lo vuole, ma quante volte abbiamo consumato le suole per andare sempre alle stesse scuole, noi insieme nel bene e nel male. Quante volte ti ho detto fanculo, quante volte ti ho detto nel tuo, ma alla fine finiva con un abbraccio leale. Il resto non vale, ma adesso seguiamo e saliamo le stesse scale. Già lo sai, e tu mi hai insegnato il tempo, e questo tempo mi ha dato le rime giuste per stare in queste vie. Queste sono avanti, ma anche le prime scritte sui banchi di scuola, quando aspettavamo insieme che suonasse l'ora. La nostra amicizia dall'ora migliora, anche se adesso ho cambiato dimora, ma tutta questa storia rimane, anche se ricordo le spinte al mare, tutto il ricordo riaffiora. Ma la nostra amicizia no, quella non si sfiora. E ora sono con l'economista, per poco non seguivo la sua pista, meno male che non ci siamo persi di vista, anche se un po' ci sta. E adesso penso, ripenso e rido, da quanto tempo ci conosciamo, da quando insieme facevamo l'asilo, e ancora adesso tutto è strano. Se fossi una donna direi che ti amo, davanti a te io tremo, questa sera io sarò sincero, anche se non ho preso l'ultimo treno. Il fine giustifica i mezzi, per evitare di finire a pezzi, ma sai che non scherzo quando dico che mio figlio me lo battezzi. Apprezzi ognuno al suo modo di porsi, forse qualcuno ha dei rimorsi, ma noi fino all'ultimo giorno insieme, perché nessuno vuole rimborsi. Qui tutti hanno la voglia di rialzarsi, di rompere il vetro e di sentirsi immersi. Io lo so, tu lo sai, noi sappiamo cosa pensi, siamo l'unica persona immersa nei versi. Già lo sai. Mi ricordo il momento della mia vita, alla luce del sud, ho visto il sogno nel cielo. Ora sai tutte le cose che non possiamo nascondere. Potrei dirti di tutti i miei sogni dall'inizio. Questa è la mia vita. Fumo passivo 2010. Ma tanto già lo sai.